Letture di Radio 24. Vincitore del premio Strega nel 1989 e del Campiello nel 2001, Giuseppe Pontigia non era soltanto un grande scrittore, ma era anche un appassionato lettore. La sua biblioteca contava oltre 40.000 volumi, con i libri che avevano ormai invaso ogni angolo della casa. Come racconta Giuseppe Marcenaro nel suo personale ricordo dello scrittore comasco, pubblicato oggi sul domenicale del Sole 24 Ore. Trovai quel giorno il Peppo Pontigia in preda alle convulsioni. Rideva raccontandosi per la decima volta ciò che gli era successo poco prima che arrivassi. E quando il Peppo rideva, faceva tremare gli scaffali della tentacolare biblioteca di casa sua. Le scansie ingolfate invadevano ogni più recondito angolo dell'appartamento milanese. Col tempo i libri avevano dilagato nell'appartamento sottostante, affittato appositamente, dove trovarono posto la linguistica e la storia. Occuparono più tardi anche la portineria dismessa, i cui locali accolsero la parte geografica e la cultura orientale. Al Novecento italiano, Pontigia aveva destinato la cantina. Le cronache hanno diffuso più volte il numero di libri accumulati da quest'uomo originale. Il 27 giugno 2003, alla scomparsa del Peppo, i volumi avevano superato la vertiginosa cifra di oltre 40.000. Un eccesso per un solo lettore. Eppure a questo grande mantrugiatore di carta stampata, a questo importante scrittore della seconda metà del Novecento, sembrava mancasse sempre l'ultimo libro, indispensabile a soddisfare la smodata frenesia accumulatoria. Ma ciò che contava non era il numero, piuttosto l'importanza dei libri e l'ordine ossessivo con cui la biblioteca di Giuseppe Pontigia si doveva presentare a chi lo andasse a trovare. Più volte aveva precisato, quasi scusandosi della sua sublime paranoia libresca, affine alla follia, che la base per fare letteratura è sempre l'esperienza personale, ma i libri sono indispensabili. A uno scrittore le letture servono per liberarsi dai libri. Chi legge poco è influenzato dal poco. Nei libri c'è l'essenza della vita, anche se è impossibile pretendere di leggerli tutti. Soltanto guardandoli, acquistandoli, sfogliandoli, si realizza una sorta di appropriazione magica del contenuto, una indigestione invisibile delle pagine, come se si desiderasse inghiottire attraverso di loro la conoscenza di tutto l'universo. Ai libri ho sacrificato tutto, ripeteva sconsolatamente soddisfatto, sia interiormente sia nell'arredamento della casa. Sono spariti anche i quadri. D'altronde i libri mi hanno dato tutto. Devo sdebitarmi in qualche modo. Quella mattina, quando andai a trovarlo e lo trovai euforico, reso contò subito l'accaduto. Sento suonare e al citofono una voce femminile chiede di aprire. Dice: «È un'inchiesta sulla lettura!» Per la disgraziata doveva essere stato uno shock tremendo quando a una sua domanda su quanti libri acquistasse, Pontigia aveva risposto con olimpica calma: «Diciamo almeno 100». E lei, incredula: «Che cosa? In un anno?» Al che Pontigia l'aveva stecchita con la freddezza distaccata di chi voglia prendere in giro, stupendo. «No, in un mese!» Quando Peppo aveva aperto l'uscio dell'appartamento e si era mostrato in tuta, l'abbigliamento casalingo dello scrittore, con quella sua aria da Falstaff appagato, l'intervistatrice doveva averlo preso per un metalmeccanico in pensione. Superata la soglia, la femmina dell'inchiesta si era guardata in giro con sgomento. «Le ho offerto una seggiola perché si riprendesse», racconta Pontigia. «Ma lei che cosa fa nella vita?» chiese l'atterrita. E la risposta non poteva che corrispondere alla sublime laconicità di Pontigia, capace di battute fulminanti. «Leggo, come vede, e scrivo». Mentre il sommo Peppo riempiva per metà abbondante il divano dove si era lasciato cadere, proseguendo nella sua iperbolica e surreale pantomima, schizzata di risate, diventata poi un suo splendido racconto, per pareggiare il conto mi fu impossibile non aumentare la dose. Si bloccò per un attimo, incredulo. Mi fissava con gli occhi allagati dalle lacrime per il troppo ridere. «Penso che per chi ama i libri di antiquariato», ripeteva Pontigia, «un piacere forse più intenso dell'acquisto sia sfogliare il catalogo. Niente uguaglia la gioia di cercare i titoli bramati, offrendo spesso l'attimo fatale per aumentare l'ebbrezza o attenuare la delusione. I cataloghi dedicati al Novecento offrono qualcosa di più che un assortimento di piaceri furtivi. Sono caleidoscopi di sorprese bibliografiche e di retrodatazioni di novità. Anche le prime edizioni hanno un loro doppio. Si scopre che all'origine c'è, ancora una volta, un'altra origine. Ho imparato più dai cataloghi antiquari che dai dizionari critici. Molti autori non li avrei mai letti se non mi avessero tentato le chiose, sobrie e sornione dei librai. Di altri, che ho appreso ad amare, ignorerei l'esistenza. Di altri conoscerei il nome e il cognome come un'epigrafe mortuaria, anziché il timbro della loro voce. Biondo, occhi azzurri, naso da pugile, spalle imponenti, enorme. Dire che fosse bonario è un paradosso. Le sue stroncature erano micidiali, gli elogi smisurati. Eppure era un uomo di grande affabilità. Disponibile, emanava una simpatia che metteva l'interlocutore a proprio agio. Coltissimo. Forse aveva letto tutti i libri del mondo. Bastava tuttavia che qualcuno dicesse una insensatezza per far svanire la sua attenzione. Era un lombardo che aveva imparato a nuotare da ragazzo nell'allora limpidissimo Lambro. Diceva d'aver avuto una precoce paranoia narrativa raccontando in prosa gli album dei fumetti di Flash Gordon. Ma il mio eccesso era la domenica del Corriere, dove tutti gli originali del mondo erano presi sul serio. La gente si prende drammaticamente sul serio. Sostenitore della franchigia intellettuale dei bambini, era certo che i veri idioti siano gli adulti. Si rincretinisce crescendo. Pur conoscendo la vita, aveva il dono di stupirsene sempre, poiché dava l'impressione di volersene tirar fuori, chiudendosi nella torre protettiva dei suoi libri, da dove inviava messaggi attraverso i suoi scritti, densi di formidabili paradossi. Sono sicuro che per lui la biblioteca avesse cuore e anima. Anzi, sarei portato a pensare, al di là della cura che aveva per la letteratura, che l'autentica opera sua sia stata proprio la biblioteca, dove lavorava, si perdeva, sognava, rifletteva, si rifugiava dal mondo. I libri lo difendevano dalla insopportabilità per l'ignoranza e per la volgarità, anche se poi lo affascinava l'imprevedibilità dell'ovvio, il raggio d'ombra che dà spessore alla realtà che non consente, neppure di fronte all'evidenza, comunque sempre apparente, una determinazione netta, una rivelazione di verità sicura. Intendeva la casa come una prigione in cui essere libero. Di Pontigia conservo tutti i libri, arrivati puntualmente appena usciti. Recano dediche scherzose, autoironiche. Il Peppo aveva una grafia ampia, quasi da bambino, ed era fedele all'amicizia. Le sue dediche in apertura del libro erano l'antefatto alla scoperta di un nuovo romanzo, una nuova indagine che affondava nel gorgo di verità senza finzioni, senza consolazione. Era il più ostinato e rigoroso difensore d'ogni costruzione del linguaggio. Il linguaggio, al di là della trama, ha un suo splendore, una sua autonoma felicità. Sono sempre stato emozionato dallo splendore delle parole. Amava i classici, Sallustio per primo, Cesare un modello supremo, ma era a Tacito che riservava un'ammirazione immensa. Penso fosse convinto che un paese senza la purezza della lingua è inevitabilmente destinato a perdere la propria identità. E che la conseguente impura letteratura, pressapochista, scassata e senza dignità, è niente. Soltanto effervescente prodotto da supermercato. Pontigia si appassionava agli sfumati e alle ambiguità che stanno sospese tra le parole, negli spazi di un testo scritto. Credo pensasse, nonostante il successo dei suoi libri, d'essere inseguito da un'infantile persuasione, di dover ancora dare il meglio della narrativa e nella saggistica, convinto com'era che la fine del romanzo non esiste. Certo, Pontigia non era un uomo e uno scrittore che potesse pensare di scrivere un libro all'anno come certi produttori di manifatture che sono dimenticate l'anno dopo. Era duro, tenace con se stesso. La sua ostinazione alla perfezione e alla chiarezza fanno di lui l'ultimo scrittore moralista che io abbia conosciuto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giuseppe Marcenaro, Peppo, beato tra gli scaffali, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi.